La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori della 24, 16:31 primi 18 secondi in diretta qui dagli studi di Milano di Radio 24. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto come sempre in diretta in podcast. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Vi chiedo in particolare, l'abbiamo chiesto anche stamattina con Alessandro Milan, attenti a noi due, di segnalarci se per caso non avete fatto in tempo, non avete capito a fare la segnalazione, l'autodichiarazione per cui è scaduto il termine per l'esenzione dal canone in bolletta RAI, perché siccome gira, l'avrete visto sul giornale, sui diversi siti, anche qualche istanza di proroga del termine, noi qui a Radio 24 siamo tutti interessati a capire se questo fenomeno è davvero dal punto di vista quantitativo apprezzabile e quindi farne una vera e propria campagna oppure no. Quindi vi chiediamo di segnalarci le vostre condizioni, se per caso o non avete capito, o non l'avete fatto, vi siete reso conto dopo o non era abbastanza allerta al meccanismo della sveglia per il 15 maggio, fateci capire e a quel punto faremo le nostre valutazioni e torneremo sull'argomento magari insistendo per una proroga. Ricordo a tutti che la condizione per pagare il canone in bolletta è quella della coincidenza tra la residenza anagrafica e l'utenza elettrica, quindi per componenti diversi della famiglia a cui sono intestate utenze elettriche senza che siano nella stessa residenza della famiglia, allora lì c'è da fare la segnalazione per i membri della famiglia che non ricadano nella coincidenza e così via. Quindi seconde, terze case eccetera eccetera, c'è un canone per nucleo, c'è il problema dei conviventi, ne abbiamo parlato diverse volte, ma comunque se ravvisate il caso che dovevate farlo e l'avete capito troppo tardi o non avete potuto farlo, scriveteci, oltre che per tutto il resto naturalmente. La puntata di oggi è su altro ed è su un tema che a me è molto caro, ma voglio capire a quanti di voi lo è, magari sono in minoranza e mi sbaglio io. Avete visto sui giornali in questi giorni molto spazio dedicato alla vicenda di Severino Antinori. Severino Antinori che è agli arresti domiciliari dallo scorso 13 maggio con l'accusa di aver prelevato forzatamente gli ovuli a un'infermiera. Stiamo parlando di fecondazione eterologa e la sua l'accusa è quella di aver rapinato contro il consenso non esplicito ovuli espiantati da impiantare poi a terzi per la fecondazione assistita. Vasto scandalo sui giornali italiani di fronte a queste vicende che se comprovate sono ovviamente orrende, perché non si possono espiantare gli ovuli a una donna in queste condizioni. Ma io ho avuto una reazione fin dal primo momento di altro tipo. Perché, essendo io stato molto favorevole alla sentenza che 2 anni fa dalla Corte Costituzionale, abbattendo una delle tante sentenze che ha fatto successivamente a pezzi la vecchia legge 40 che impediva la fecondazione eterologa, impediva tante altre cose, essendo stato favorevole che la Corte Costituzionale dicesse no, questa cosa deve essere consentita anche nel nostro ordinamento, a 2 anni da quella sentenza, io avendo sempre seguito la vicenda, sapevo perfettamente quello che poi i giornali hanno scoperto nei giorni e hanno scritto, e cioè che attualmente, a distanza di 2 anni, in sole 3, ripeto, 3 regioni italiane, e cioè in Toscana, in Friuli, in Emilia Romagna, in sole 3 regioni italiane, gli ordinamenti regionali che come sapete sono responsabili per l'offerta sanitaria al nostro paese, hanno in realtà adempiuto a tutte le condizioni perché la fecondazione eterologa possa essere offerta dalla sanità pubblica. Si tratta di pagare più o meno 500 euro, ma nelle altre regioni, quindi nella stragrande maggioranza del paese, non è così. Allora, la mia opinione, che voglio testare con le vostre telefonate, le vostre opinioni, telefonate all'800240024, l'opinione al 3492386, e se pensate come me che questa, perdonatemi, io la penso così, colossale ipocrisia della politica italiana, che in 2 anni non ha adempiuto alla Corte Costituzionale nell'offerta della sanità pubblica della fecondazione eterologa, non sia la prima responsabile di fenomeni come quelli per cui è indagato Antinori, di fenomeni comunque di privati che lucrano prezzi molto troppo elevati, nonché all'origine ancora del fatto che migliaia e migliaia di coppie italiane si recano all'estero, dove da prima questa norma, la proibizione non c'era, e dunque dove la fecondazione eterologa era praticata. Io non riesco a buttare giù il fatto che in tre sole regioni questo diritto è garantito. Allora, il problema diventa, prima di avere le vostre telefonate, come mai solo in queste tre regioni è capitato e che cosa queste tre regioni hanno fatto che le altre regioni non hanno fatto per consentire l'offerta nella sanità pubblica della fecondazione eterologa da una parte? B, seconda questione, chi si occupa delle migliaia di italiani che vorrebbero adire a delle procedure che la Corte Costituzionale dice sono riconosciute nel nostro ordinamento e invece naturalmente si vedono di fronte un muro persistente e a mio giudizio ipocritissimo, questa è la mia opinione del tutto personale. Allora, per capire i due aspetti della questione, due ospiti. Allora, abbiamo innanzitutto con noi appunto delle tre regioni, ha accettato di dedicarci un po' di tempo, io molto lo ringrazio, l'assessore alle politiche per la salute dell'Emilia Romagna, una delle tre regioni appunto nelle quali la sentenza della Corte è ottemperata. Sergio Venturi, e grazie di essere con noi oggi pomeriggio. Grazie a voi. E poi abbiamo con noi Filomena Gallo, avvocato, segretario dell'associazione Luca Coscioni, presidente di Amica Cicogna, che appunto difende diverse coppie che in Italia non riescono ad accedere all'eterologa. Grazie avvocato Gallo. Grazie a voi. Allora, assessore Venturi, ci spiega che cosa nella vostra regione avete fatto per adempiere alla sentenza della Corte e quindi per capire a chi sta nelle altre regioni che cosa invece nelle altre regioni ancora manca, non è possibile, non c'è la volontà. Non le chiedo di dare giudizio ovviamente sulle altre regioni, ma solo di spiegare come vi siete attrezzati perché la sentenza della Corte fosse ottemperata. Ma c'è questa sentenza dell'aprile del 2014 che lei ha già ricordato, che consentiva anche in Italia quello che era già consentito in diversi paesi. Nella nostra regione a settembre 2014 la giunta regionale ha preso una delibera nella quale sostanzialmente normava l'offerta di fecondazione eterologa equiparandola in sostanza alla fecondazione omologa e quindi garantendo la possibilità per le donne di avere lo stesso trattamento che presuppone praticamente la gratuità tolta l'ecografia di controllo, che queste vengono pagate comunque anche nell'omologa. Certo. E quindi viene sostanzialmente di fatto stabilito un diritto. È naturalmente difficile da esigere questo diritto perché abbiamo oggi efficienti ed efficaci soltanto due centri pubblici in regione, perché c'è un tema che riguarda il fatto del procurement dei gameti, che non è una cosa semplicissima per l'eterologa, lei lo ricordava prima, che può essere fatto anche in modi non del tutto legali. Quindi noi stiamo utilizzando gameti congelati con il consenso delle persone che avevano fatto procedure per la fecondazione omologa, li stiamo utilizzando con il loro consenso per la fecondazione eterologa, e poi abbiamo diversi donatori, ma soprattutto maschi, per quanto riguarda che non paghiamo naturalmente, ma che insomma si prestano volontariamente e che ci servono per la fecondazione eterologa quando il difetto è maschile o non è femminile. Quindi è un diritto che stiamo cercando di rendere sempre più esigibile e che garantiamo fino al 43° anno, perché le evidenze scientifiche ci dicono che oltre il 43° certo anno le possibilità di fecondazione scemano, declinano moltissimo. Sì. Esattamente, questo è quello che sostanzialmente abbiamo fatto insieme a qualche altra regione. Devo dire che lo abbiamo fatto un po' in solitudine, perché in realtà il fatto che sia inserita questa pratica nei livelli essenziali di assistenza da parte della conferenza Stato-Regioni ancora non è avvenuto, perché i nuovi LEA sono da tempo in discussione, dovrebbero essere presentati oggi, diciamo, sì, ieri alle regioni, perché naturalmente serve un'intesa con il governo, e credo che a questo momento ci sia una valutazione rispetto ai costi aggiuntivi che determina i nuovi LEA. Noi l'abbiamo interpretata come analoga alla fecondazione omologa, nel senso che per noi i costi sono assolutamente gli stessi e quindi non si vedeva la differenza che poteva esserci, quindi in analogia l'abbiamo interpretata in questo modo, è però un'interpretazione che abbiamo dato solo in tre regioni. Ah, ecco, quindi questa è la ragione, cioè la ragione era l'interpretazione da dare perché l'offerta fosse garantita, un'interpretazione su è compresa o meno nei livelli, nei LEA, è questo il punto? Proprio così. Ma posso chiederle, adesso non so se lei vuole esprimere questo giudizio, ma non ci sono state anche valutazioni di altro tipo secondo lei? Cioè, com'è possibile che nella stragrande maggioranza delle regioni la valutazione sia stata così diversa rispetto a quella che avete seguito voi? Ma io non so se ci siano state valutazioni diverse o semplicemente priorità differenti, perché in realtà le regioni su questo tema si sono già pronunciate, cioè la conferenza delle regioni a suo tempo, a seguito della sentenza, stabilì che comunque l'inserimento nei LEA era una condizione che doveva essere favorita. Però e questo è quello a cui stavo anch'io, tutte le regioni, non è che ci furono eccezioni in questo. Esattamente. No? Diciamo che poi nell'applicazione concreta qualche regione ha anticipato questa cosa che doveva essere sancita dallo Stato e l'abbiamo fatta in autonomia, ecco, prendendoci la responsabilità di questo, altre regioni hanno deciso di attendere che questa pratica fosse garantita solo all'approvazione finale dei nuovi livelli essenziali di assistenza. È chiaro che questo lascia, diciamo, questo diritto non solo non esigibile ma neanche erogabile, nel senso che noi abbiamo oggi molte pazienti che vengono in Emilia Romagna, sono largamente al di sopra del 50% delle persone che sono in lista d'attesa da noi, che vengono da altre regioni. Ovviamente è così, appunto, nelle uniche tre regioni che hanno dato questa anticipazione. Ipotizziamo per un secondo che lo Stato potrebbe dire di no, a quel punto la sentenza cadrebbe nella polvere. Io non credo che lo Stato possa dire di no ad una sentenza di quel tipo, francamente lo trovo irrealistico, insomma c'è una pronuncia inequivocabile. Non credo affatto, non so neanche della teoria del complotto per cui non passano i LEA perché c'è questa cosa che scuote le coscienze. Penso che sul tema dei LEA c'è una valutazione più complessiva, sì, i nuovi LEA, certo, che riguarda i costi complessivi per il servizio sanitario di qualche centinaio di milioni, quindi giustamente il MEF è scrupoloso perché c'è un problema generale di tetto rispetto all'evoluzione pluriennale. Questo è vero, lo sappiamo anche noi questo tema. Le faccio un'altra domanda, questo per dare una risposta ai nostri ascoltatori. I nostri ascoltatori che chiedono, ma nell'ambito dell'autonomia regionale delle tre regioni che per il momento hanno anticipato, per così dire, la bollinatura dello Stato attraverso i LEA, ma intanto è possibile in termini generali anche per le altre dare una risposta diversa alla una delle leve molto criticate, perché il fatto è che in altri paesi, quelli che hanno introdotto l'eterologa prima dell'Italia, le donatrici sono regolarmente pagate. Ecco, questo è il punto di fondo, no? Nella facoltà autonoma dell'offerta regionale, nel nostro ordinamento, sarebbe possibile una cosa simile? No. Ecco, questo no, diciamolo perché chiaro. È parificata alla donazione del sangue, degli emoderivati, degli organi, quindi da noi questo non è proprio possibile assolutamente. E nel frattempo le regioni, per esempio in Emilia Romagna, voi garantite anche che invece i centri privati, ci sono circa 80 strutture in Italia dove a seguito della sentenza si può fare l'eteroga, naturalmente si paga dai 3.000 euro in su, per essere chiari. Nei confronti dei centri privati della vostra regione voi svolgete un'attività di certificazione, di controllo, di che tipo? Sì, questi sono privati puri, nel senso che noi abbiamo rapporti con le strutture private di due tipi. Uno che è semplicemente autorizzativo, dove evidentemente andiamo comunque a controllare che ci siano i requisiti, perché dobbiamo garantire la sicurezza delle pratiche. L'altro invece è di convenzionamento, nel senso che in quel caso noi remuneriamo il centro e lo trattiamo come se fosse un centro pubblico, perché fa parte del servizio pubblico, anche se si tratta di un certo soggetto privato. In questo caso sono soggetti privati puri e non hanno un grande interesse a far parte della comunità, diciamo pubblica. Diciamo che avendo centri pubblici oggi due, ma nel giro di un paio di mesi diventeranno sei, perché abbiamo quattro centri che hanno difficoltà di approvvigionamento di gameti, e nel momento in cui riusciremo a fornirgli quei gameti nello stesso modo in cui li forniamo ai primi due, il deterrente alle pratiche scorrette è rappresentato dal fatto che comunque c'è una concorrenza in sostanza, e quindi da noi si paga molto poco, si paga l'ecografia, per dire, e nel centro privato si paga tutto dall'inizio fino alla fine, tutt'altro ordine di cifre. È l'unica attività di controllo e di deterrenza che possiamo esercitare, insomma, la concorrenza, evidente. Allora, le cifre ufficiali, quelle di cui disponiamo, quindi ufficiose più che ufficiali, dicono che dalla sentenza oggi in Italia sono stati fatti poco più di 400 trattamenti. Le faccio un'ultima domanda, assessore, poi la restituisco alle sue incombenze, ai suoi doveri istituzionali. Ma la lista d'attesa attualmente nella vostra regione, più o meno, quanto è lunga più o meno? La lista d'attesa noi la calcoliamo sulla base di quelle dell'omologa, perché sull'eterologa è un po' più complicato, nel senso che sull'eterologa ci sono dei passaggi differenti, dipende dalla disponibilità dei gameti. Comunque siamo sull'ordine di un anno e mezzo. E purtroppo, naturalmente, questo era il dato che io sapevo già, ma ci tenevo a farvelo dire all'assessore, perché è inutile dire che chi è con il tempo che fa tic-tac rispetto a, avete sentito, nel mio ormai 43 anni è il tempo limite, l'età limite, ovviamente anche lista d'attesa, virgola, dovute al fatto che in sole tre regioni ci sono, è stato possibile ottemperare fino a questo momento la sentenza della Corte, impediranno a migliaia di soggetti di entrare nella facoltà di godere di questo diritto riconosciutoci due anni fa, e quindi nel frattempo chi può paga e va fuori, altrimenti ragazzi non se ne parla. So che per molti di voi, lo vedo già dagli sms, non è una grande priorità, eccetera, capisco che ci siano opinioni diverse, però qui siamo in presenza di una sentenza della Corte Costituzionale e di un ordinamento che fatica, come si vede, poi a garantire davvero questo diritto. Grazie intanto all'assessore, torniamo tra un minuto e a quel punto abbiamo con noi l'avvocato Filomena Gallo per farci capire chi e cosa può fare nel caso in cui non riesce a vedere quel diritto tradotto in un diritto esercitato. La versione di Oscar. Tanto sono arrivati, siamo tornati in diretta alle 16:49 primi e 32 secondi, diversi sms che riguardano, come immaginavo, la questione televisiva. Sonia da Venezia, no, la radio solo no, per essere chiari, quindi se non avete il televisore, però attenzione, se non avete il televisore e non avete fatto l'autodichiarazione, non è che non pagate il canone, cioè, ripeto, la coincidenza è quella tra residenza anagrafica e utenza elettrica, è quella che dà la presunzione allo Stato che voi siate in possesso di un apparato di audioricezione. Quindi lo pagate se non avete fatto l'autodichiarazione, ecco, in qualunque forma voi l'abbiate mandata, se l'avete mandata con la PEC avete scoperto che con la PEC lo Stato ancora digitalmente non ha molta facilità, se l'avete mandata con la raccomandata in plico, se l'avete mandata con il modulo all'agenzia dell'entrata elettronico, ma comunque sia, e se non avete fatto l'autodichiarazione, non avete la televisione, la pagate a luglio, quindi poi a quel punto aspettate anni per averla indietro. Allora, detto tutto questo, in molti invece quello di oggi il tema della eterologa non garantita due anni d'assenza della Corte è una, non un problema rispetto alla priorità, me ne rendo conto, però è una questione, il diritto di fare figli, ne abbiamo parlato anche stamattina dal punto di vista fiscale, in Italia come vedete continua a essere contrastato, poi piangiamo sulla demografia, qui si tratta di gente che li vuole molto intensamente, eppure dopo due anni ancora non siamo in grado di garantirglielo. Allora, avvocato Filomena Gallo, presidente di Amica Cicogna, segretario dell'associazione Luca Coscioni, che cosa possono fare le coppie che sbattono la testa di fronte a tre sole regioni su 20 che garantiscono davvero il diritto? Chiedere la piena applicazione della sentenza della Corte Costituzionale, cosa che stiamo facendo con coppie sia in Lombardia che in Veneto. E di fatto quella sentenza ha valore di legge e non può essere disconosciuta dalla politica, che invece non fa nulla per renderla applicabile, mancano campagne informative e anche questo limite dei 43 anni che è stato introdotto dalle regioni, in alcune regioni tra l'altro anche di 41 anni, è un limite illegittimo perché la legge 40 parla di età potenzialmente fertile, quindi è il medico che deve stabilire qual è l'età potenzialmente fertile per una coppia che può essere differente da un'altra coppia. Tra l'altro, in aggiunta a quanto ha detto l'assessore poc'anzi, c'è da dire che in regioni come la Toscana, il Friuli Venezia Giulia, per reperire gameti disponibili per la fecondazione con l'utilizzo di gameti eterologhi, addirittura sono stati fatti anche dei bandi dove hanno partecipato delle strutture straniere che forniscono gameti che arrivano dall'estero. Naturalmente sotto tutti i controlli necessari del caso, eccetera, eccetera. Sì, noi abbiamo delle norme molto rigide in Italia, anche la stessa sentenza della Corte Costituzionale ha chiarito che non c'è vuoto normativo, che devono essere rispettate tutte le norme che sono in vigore nel nostro paese, che riguardano la tracciabilità e la sicurezza sia per i donatori che per i riceventi che per i nati, quindi sul piano scientifico c'è ampia copertura, anche se il Ministro della Salute più volte, pur dichiarando che renderà effettivamente accessibile a tutti questa tecnica, ha anche però dichiarato che in effetti non c'è copertura scientifica adeguata, ma non è così. Dunque, no, aspetti un secondo, questa è la copertura scientifica, mi era sfuggita. Io avevo visto le dichiarazioni del ministro Lorenzin relativamente al fatto, detto con una punta così di superiorità, dicendo: ma tanto non ci saranno i gameti volontari per tutti. Questo l'avevo visto, ma non avevo visto che il ministro avesse detto anche che non c'era la sicurezza scientifica. Di fatto noi abbiamo recepito la normativa comunitaria che riguarda tracciabilità e sicurezza per cellule e gameti, che fino a quando era in vigore il divieto di eterologa era applicabile soltanto per i gameti omologhi. Cadendo il divieto diventa direttamente applicabile anche per i gameti eterologhi. Di fatto però il ministro, insieme al suo staff, rimanda a normative che dobbiamo recepire, ad adeguamenti scientifici che ci devono essere, quindi di fatto manca la volontà politica. Ah, ecco. Se quindi pensiamo... aspetti, la interrompo per dire, dunque, mentre la sentenza dice c'è continuità normativa, il ministro frappone un ostacolo e dice non è vero, è così? Sì, tant'è vero che aveva cercato di portare al Consiglio dei Ministri un decreto ministeriale che riguardava anche la questione anonimato. Quindi insomma, un po' di problemi a livello di volontà politica di fatto ci sono. Pensiamo che nella raccolta dati dei donatori, che deve essere assolutissimamente anonima, nei centri di fecondazione assistita questi dati vengono conservati per 30 anni, ma vengono associati a dei codici criptati. Il Centro Nazionale Trapianti, che ha raccolto i dati, per un periodo di 3 mesi, questione accertata dal garante della privacy, ha violato i dati dei donatori associati anche alle coppie. Quindi a livello pratico ci sono problemi determinati solo dalla politica, che se facesse campagne informative, se desse corso anche alla volontà di aggiornare i LEA, che sono un atto immenso che riguarda anche tante patologie, riuscirebbero comunque a garantire equità nell'accesso alle cure, perché il limite economico non deve essere un limite ad accedere a dei trattamenti sanitari che ti possono dare la possibilità di avere un bambino. Di fatto in Italia stanno aprendo anche strutture straniere dove non avranno certamente. Io tra l'altro dico, c'è un ascoltatore che sta bombardando dicendo una falsa priorità, sei un fai pubblicità, io non faccio pubblicità a nessuno. I 400 interventi, caro ascoltatore, prima che perdo la pazienza, dipendono dal fatto che ci sono pochissimi centri pubblici. Non so se hai capito, sono migliaia e migliaia le persone che vanno all'estero e che restano nella lista d'attesa. Se per te non è una priorità, pace, intanto è una legge e va rispettata, anche contro l'opinione di chi come te gode del fatto che invece la gente non abbia figli. Problemi tuoi, scusa se te lo dico fuori dai denti. Giuseppe d'Alessandria, come la pensa? La penso che ascoltando quest'ultimo messaggio alla fine ci meritiamo i governanti che abbiamo, se questo è il pensiero. Io e mia moglie stiamo facendo un trattamento riterologo, andremo in Spagna, fortunatamente, ringraziando il cielo, facendo un finanziamento in banca, andremo in Spagna, faremo poi andando anche sul concreto e sull'economico, scusa, sono abbastanza concitato perché mi prende la cosa, perché sono anni che ci stiamo provando, e quindi, ma anche economicamente, noi andremo in Spagna, staremo una settimana in un albergo spagnolo, viaggeremo con compagnie spagnole, quindi anche dal punto di vista economico, se vogliamo andare a toccare, andiamo a toccare il tangibile. Esatto. Concreto. Migliaia di euro, e ci sono italiani che godono di fronte a questo. A me fa schifo il fatto che gli italiani non capiscono che la legge va rispettata per tutti. Continuate con la 24, appuntamento 8:15 di mattina con me, Alessandro Milan.